Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis, bentornato al nostro ospite Norbert Lanchner, presidente della Fondazione Clima Abita e storico fondatore dell'agenzia Casa Clima. Buonasera Norbert. Buonasera Maurizio. Dunque, ieri appunto abbiamo visto come nasce l'idea, quali sono i primi passi. Ma cosa è stato a far funzionare questo sistema? Perché insomma noi abbiamo avuto la certificazione energetica, adesso abbiamo l'attestato di prestazione energetica, sistemi di certificazione ce ne sono tanti, però solo lì si è mosso qualcosa. Credo che siamo riusciti a svegliare l'emozione dell'abitare. Non è una questione puramente razionale. Credo che abbiamo sempre in passato sottovalutato la dimensione dell'emozione. L'emozione è l'energia che ci serve per cambiare le cose. E questa emozione nell'edilizia è riuscita a fare grandi passi in avanti, perché il cittadino ha avuto in mano un strumento di individuare la qualità elevata di efficienza energetica con una targhetta, con un certificato che garantisce la qualità energetica, perché non è solo una dichiarazione ma avviene dopo un esame di controllo, certo, del progetto, certo, e un esame di cantiere. Però mettendo il concetto della targhetta è quello della medaglia, cioè a un certo punto è vero che la persona vuole risparmiare energia, bruciare meno metano, magari salvare anche un po' l'ambiente, però insomma ci sono anche degli aneddoti che tu mi hai raccontato, che adesso devi assolutamente raccontarci, che dimostrano che in fondo era più il desiderio di mostrare di essere il proprietario di una casa in classe A, come avere una bella macchina o qualcosa del genere, che non altro, o comunque era un ingrediente importante quello lì. No, è una sana competizione. Ecco. Prendo questo esempio, questo mi ha colpito perché era una giovane famiglia con due bambini che avevano l'ultima casa. La villetta di testa. Esatto. Tutti avevano la classe A, loro avevano altro progettista, avevano scelto altri materiali, per cui sono finiti in classe B. Ma sono rimasti talmente male poi quando ho ottenuto questa targhetta solo, fra virgolette, in classe B, che comunque è una buona classe, certo, di efficienza, certo, energetica, che si sono presentati in ufficio e hanno chiesto che cosa devono migliorare in questa nuova casa per entrare in classe A. Addirittura questi volevano cambiare i serramenti nuovi della casa, no? Erano disposto a cambiare i nuovi serramenti, ecco, una follia. Per il risparmio energetico, perché gli mancava anche poco per arrivare in classe A, era per avere la targhetta della classe A, non gli garbava di avere quella della classe B, no? Meccanismo scatta perché uno vuole essere fiero dell'investimento e vuol farlo vedere, e questo è molto positivo perché ci ha aiutato veramente in breve tempo di ricambiare il modo di progettare e di costruire, per cui la classe A è diventata la classe di riferimento. Nessuno voleva più la classe C, che all'inizio era ancora una classe di qualità media. Diciamo che è un problema di marketing. Ecco, quindi se dovessi dirmi quali sono gli ingredienti, i tre o quattro ingredienti fondamentali di un sistema di certificazione che è in grado di muovere le cose, al di là dell'obbligatorietà e quant'altro, quali sono? Hai ragione, Maurizio, è veramente marketing, perché abbiamo tutto oggi nelle nostre mani, abbiamo le tecnologie, abbiamo i migliori materiali, abbiamo i sistemi, abbiamo il know-how, però non siamo in grado di sfruttare queste conoscenze, proprio perché non siamo in grado di avere... Di attribuirgli il valore, sì. Spendiamo 5.000 euro per mettere delle piastrelle placcate oro nel bagno, ma non cambiamo il bollitore dell'acqua, non so come dire. Per cui non abbiamo quelle scelte che ci permettono di risparmiare veramente un sacco di soldi e soprattutto anche di migliorare la qualità abitativa, per cui gli ingredienti sono proprio questo fattore di emozione che dobbiamo veramente utilizzare in modo intelligente, però poi ovviamente ci vuole la qualità costruita con delle verifiche, con dei controlli seri, per cui dobbiamo uscire da questa ottica delle autodichiarazioni. Dicevi anche che i costi della certificazione non devono neanche essere esorbitanti. Noi abbiamo avuto questo fenomeno per cui le certificazioni energetiche venivano vendute a 50 euro su internet. Naturalmente era un foglio di carta che non valeva nulla, però contemporaneamente una certificazione molto costosa, forse difficile da mandare giù per il mercato. No, infatti ci vuole un giusto rapporto tra impegno e risultato. Per oggi intorno alle 900-1000 euro puoi avere un'ottima certificazione che veramente garantisce la presenza del controllore in cantiere in tutti i paesi del mondo. Senza controllo purtroppo subentra la furbizia, gli errori non vengono corretti per cui 1.000 euro, se posso poi risparmiare migliaia e migliaia di euro, credo che è un investimento comunque intelligente. Grazie, grazie Norbert Lanchner. Grazie Maurizio. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani.